Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo! Ci siamo! 8 e 19 di febbraio, il 18 di febbraio, oggi vabbè è finita la festa dei gatti, vabbè che vuoi fare. Però mannaggia. Detto questo, oggi dei santi di grande Lulu, livello. Lolo, Lola, Ragù, Ragù e Artù. E Artù, vabbè. Ieri erano molto felici, devo dire, anche se sono entrato a casa a un'ora improbabile dall'ufficio ieri tardissimo, senti, lì, mi hanno molto festeggiato. Perché, perché sapevano. Loro ci ascoltano la mattina, sì. Questo, perché io sono molto mattina. Ascoltano, abbiamo acquisito 5 ascoltatori. No, ci ascoltano la mattina, loro sono da sempre ascoltano la radio, quindi non ho mai capito qual è il rapporto tra i miei gatti e la radio, però ascoltano la radio, mentre la televisione no. Ma si è capito che cosa dicono della trasmissione? Gli piace? Io a volte vedo che ogni tanto qualcuno di loro si alza e va alla lettiera. Ah. Ma non dirò mai quando. Camiseria. Non dirò mai e non dirai mai quale. No, non dirò mai quando. Ah. Allora, comunque oggi un grandissimo santo, San Simone. Pensa, San Simone è stato il secondo vescovo di Gerusalemme, naturalmente crocifisso pure lui, ma non si è mai capito se fosse il fratello vero di Gesù di sangue o un cugino. Addirittura per alcuni pensano il fratello, però è sempre stato preferito dire no, meglio dire cugino, perché fratello, crea qualche problemino, per così dire. Oltre a San Simone, San Costanza, Santa Gilberto e poi Santa Geltrude, che Geltrude, naturalmente per via dei promessi sposi e la sventurata rispose è una santa, però associa un'idea a Geltrude sempre un pochino un po' particolare, come devo dire. Eh sì, allora, caro Oscar, tu non vuoi le Olimpiadi e si sa, è chiaro. No, anche se dicono sono le Olimpiadi low cost, parola sì. D'ordine. Infatti, io devo dare atto, ieri una meravigliosa presentazione, io l'ho vista per tutte due ore, tra l'altro Giovanni Malagò non è una sorpresa che sia un grande frontman, quindi teneva benissimo il palcoscenico, però ti dirò, Diana Bianchetti mi ha veramente stupito, perché ha tenuto per due ore il microfono senza un pezzo di carta in mano, illustrando tutti i siti per tutte le gare d'atletica con una padronanza chapeau, cioè comunque, insomma, è i conti nata ci sono. Dirigente 5,3 miliardi di euro i conti, 2,1 servono per realizzare il villaggio, centro stampa, gli impianti permanenti, la sistemazione dello stadio Flaminio, 3,2 miliardi per l'organizzazione delle strutture temporanee. Certo, Roma ha questi 13,6 miliardi di buco certificati dal commissario. Allora, per il buco, insomma. Primo, però, che costi davvero di tutta la cosa illustrata ieri siano di 5-3 miliardi, facciamo finta, prendo per buono. Che il costo netto sia solo pari a meno di 2,1 miliardi, perché hanno anche detto che ci sono 3,1 miliardi di entrate. Allora, che queste Olimpiadi costano 2 miliardi, questa cosa non ha uguali. Ma non ci credo, perché non ha uguali in nessun tipo di Olimpiade negli ultimi decenni. Nessuna è costata netto 2 miliardi. Primo. Che questo crei 2,4 punti di PIL, cari ascoltatori, 2,4 punti di PIL per una spesa netta di 2 miliardi? Fatemi vedere il modello macroeconomico, perché sicuramente c'è parecchio da discutere. Cioè, non è letteralmente possibile. Questo non ci credi, non è possibile che una cosa che costi al netto 2,1 miliardi, quindi lì già i conti non tornano, produca un PIL di 2,4 miliardi. Vedi, 2,4 miliardi sono 40 miliardi di euro prodotti da 2,1, ma abbiamo non San Simone, Gesù Cristo in persona che moltiplica i pani e i pesci qua. Però vedi, il Messaggero giustamente la mette anche a pagina 2-3, il rilancio di Roma, capisco, poi uno gira, capisco. Ma è giusto, cioè è giusto, è stata fatta la presentazione. E quando gira la pagina trova? Quando gira la pagina trovi che il commissario Silvia Scozzese, ex assessore, dice guardate che a Roma c'è un buco di conti di 13,6 miliardi. Nonostante anni e anni e anni di gestione commissariale separata dal bilancio regalato a Roma che nessun altro comune ha, punto. Siamo ancora a questo. Allora, non si può avere un po' di chiarezza in più? Io mi auguro un confronto civile, non voglio sentirmi dire che sono antinazionale, antitaliano, gufo, eccetera. Noi siamo preoccupati perché le cifre ce le ha date ieri Confcommercio, caro Presidente del Consiglio che dice sempre che le tasse scendono, anche nel 2015 la pressione fiscale è salita dal 42,6 al 43,7, e in 15 anni, in 10 anni anzi, lasciamo perdere quanto è salita, sì. Salita anche nel 2015, perché, però in 10 anni le tasse locali sono salite da 30 a 103 miliardi, cioè più 248%, quelle centrali da 228 a 393 miliardi, più 72%. Siccome dalle nostre tasche, Alessandro, escono, forse un po' di chiarezza in più sui conti delle Olimpiadi. Guarda, guarda, lascia stare che ho saputo. Smetti di fregarti le mani, che la gente ci scrive che ti freghi le mani e poi si sente in onda come Elf, come Elf. Si frega le mani, non lo so. Va bene, allora, se volete chiamarci sulle Olimpiadi 800 24 00 24. Ma caro Oscar, abbiamo una ospite, alla quale l'abbiamo chiamata per un altro motivo, però le chiediamo che cosa pensa delle eventuali Olimpiadi in Italia. Eva Klotz, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Il partito suo è giusto, Südtiroler Freiheit. Sì, movimento, perché non abbiamo ideologie partitiche. Ah, ecco qua. Che ne pensa delle Olimpiadi eventuali a Roma? Le piacerebbero? Non dipende da me. Prima di tutto credo che si chieda la gente, la popolazione di Roma, se volesse questo o meno. Sì, so che questo ottimo. Forse per tanti non fa comodo, però si deve al giorno oggi chiedere la gente. Vorrebbe un referendum, un referendum tra la gente. Direi cittadini. Di sì, come è stato fatto a Hamburg, in circostanza anche lì delle Olimpiadi, sì, di estate. Sante parole. Ed è stato bocciato, ricordiamo, Hamburgo. Sante parole, sì. Perché ci si rivolge direttamente ai contribuenti e ai cittadini. Sante parole. Allora, però, Eva Klotz, lei sa benissimo perché l'abbiamo chiamata. Insomma, questo vitalizio, come lo dobbiamo chiamare, vitalizio, pensione, insomma, che lei ha maturato come consigliera alla provincia di Bolzano, 946.000 euro, questa la cifra? Sì, è un conguaglio. Un conguaglio, cioè? Che sì. Vuol dire un conguaglio? Non anticipo, perché l'avevo maturato essendo stata 31 anni in consiglio provinciale e regionale, avendo sempre contribuito in una quota molto alta, secondo la legge vigente di allora, dall'83, avevo maturato, si potrebbe dire, 1.400.000 euro. Quindi, e perciò dopo è stata messa mano a tutto il sistema delle pensioni per risparmiare subito 9 milioni e ogni anno più di 6 milioni, più per poter mettere a parte 50 milioni per 50 milioni di euro per famiglie e imprese piccole. Perciò questo taglio è stato fatto anche rompendo il sistema di agganciarsi ai parlamentari e ai giudici. Cioè lei dice avrei anche dovuto prendere di più, peraltro come tutti gli altri consiglieri, però perché il suo caso fa più scalpore? C'è questo aspetto, no? Lei ha fatto per anni un punto molto netto della sua battaglia politica a dire il Sud Tirol non è Italia. Non è Italia e non dovrebbe essere in Italia. Però questi soldi sono italianissimi, no? Che prende. No, sono italiani, no. Bravo. Sono le contribuzioni da me versate alla base della legge regionale, però casomai sono soldi sudtirolesi. E proprio è questo il punto anche cardine, che io da sempre vado avanti con il programma dell'autodeterminazione, cioè che la gente qui possa votare se rimanere con l'Austria, se ritornare rimanere con l'Italia. Guardi che Oscar Giannino, lei è totalmente Oscar Giannino è totalmente dalla sua parte. Io sono totalmente d'accordo, io sono per le battaglie dell'autodeterminazione dei popoli dovunque, in Catalogna. Io penso che Eva Klotz, che i giornali italiani descrivono da decenni con i tocchi di colore come se fosse un personaggio strambo, sia uno dei più straordinari esempi di coerenza di una vita intera. dedicata a una causa che è quella, cari ascoltatori, mm-hmm, anche se vi dicono italiani diffidate di questa, che è una causa semplicemente quella di fare decidere ciascuno di voi di quale forma Stato, Governo, Repubblica, confini, mm-hmm, vi piaccia o meno e sia coerente alle vostre inclinazioni, cioè un diritto naturale. E io, per Eva Kloss, che si batte per questo, ho un attaccamento e una stima. Non condivido poi tante cose, però la stimo perché, a differenza dei politici italiani che sono volta cabale, è coerente da una vita. Sì, quello sì, non ha mai cambiato idea. Però, non so, ma neanche un minimo scandalo. Lei dice sono soldi che mi spettano, sudtirolesi questi soldi. Sì, no, no, allora le dico, avendo portato avanti questa battaglia con tutti i mezzi democratici, devo dire che sempre almeno metà del mio stipendio mensile l'ho impegnato per questa mia lotta e per questo idealismo, sì. Allora è conseguente che adesso che i soldi che ho potuto versare, perché sono stata votata 7 volte ininterrottamente, mm-hmm, cioè che la gente ha avuto modo di scegliere il suo nome, firmare, sì, questa idea, questo programma, allora è solo di conseguenza che io questi soldi li prendo e li impegno per il nostro lotta. Mi fa dire questo perché è la prima volta che lo dico a qualcuno. Dica. Di più, quando proprio ci stanno ostacolando perché altri, diciamo, aderenti a partiti a livello statale possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Io che ho versato metà da questo anno non posso più mettere sulla mia dichiarazione questo, e se ci fanno fuori in questo modo, io questi soldi non me li mangio, non faccio lusso mio, ma li impegno interamente per la nostra lotta. Per la causa. Però se lei avesse fatto, se lei avesse fatto politica in Austria, magari non avrebbe preso questo vitalizio. Non credo ci siano questi vitalizi, non solo per lei, per tutti i politici. In Austria molto probabilmente non sarei neanche entrata in politica, perché sono entrata in politica proprio per andare in Austria. Lei è andata in politica per andare in Austria, quindi dice in Austria non avrei avuto ragioni per fare la politica. Non ti dimenticare. Per andare in Austria. Ma io non contesto l'idea. Far scegliere la gente. Ma guarda, io, Eva Kloss, io non contesto la sua l'idea per cui si batte, il più grande contesto politico, il vitalizio italiano del secondo dopoguerra, cioè Alcide Gasperi, è stato il più grande politico italiano perché non era italiano, e perché la sua breve esperienza di formazione politica era al Parlamento dell'ex Imperial Regio Governo austriaco. No, ma quello che io voglio dire è che io non contesto le idee di Eva Kloss e la sua coerenza, la sua battaglia politica. Siccome però contestiamo i vitalizi di tutti, no, Oscar, questo, anche dei vitalizi dei parlamentari italiani, eccetera, può sembrarci un po' smisurato questo 964.000 euro, infatti bisogna criticare la struttura dello Spartai, cioè il partito che da decenni li esercita il potere assoluto, non la formazione di minoranza, ma non chi li prende, e cui Eva Kloss, perché sai, le leggi da sola Eva Kloss, le norme provinciali già non le scrive, lo trova almeno smisurato come importo, il suo come quello dei colleghi che hanno preso questi soldi rispetto a quanto percepiscono gli italiani, Eva Kloss? Sì, è tutto un sistema, perché noi consiglieri regionali qui eravamo agganciati già molto prima che io entrassi in politica al sistema dei parlamentari e quelli al sistema dei giudici. Allora, da noi è stato messo mano tutte le pensioni. Io oggi prenderei 7.000 euro al mese, ma già avessi avuto la possibilità da 12 anni, perché avevo riempito il pieno, allora già avessi potuto andare se volevo, però hanno messo mano su questo sistema, mm-hmm, hanno staccato, hanno ridotto tutte le pensioni a 2.800, sì, e perciò il conguaglio in questo caso, devo dire, era un modo giusto. Dopo la legge è stata rivista, hanno tolto qui 20% lì, 30% sì, ritengo sì. giusto. Io una volta già, perché avevo detto io mi adeguo alla legge, ho restituito tutto quello che avevo da restituire secondo però la questi, legge. Questi adesso ritengo. Hanno rifatto i calcoli e adesso i soldi li impegno per i, sì. i miei. Ma sono già arrivati? Sono già arrivati questi soldi? Sì, sì. sì man mano, non in un che bello intero, vedere però un bel bonifico no. da 940.000 euro. Vabbè. Sì, vabbè. Sì, sì. È Beh. Una bella somma e adesso possiamo fare qualcosa perché non siamo un movimento grande, perciò abbiamo bisogno di ogni euro. Sì. Va bene, noi la ringraziamo, Eva Cloz, ovviamente buona giornata, ci ha chiarito. Anche il suo vicino lì che mi ha sostenuto e rinforzato. Ma guardi, il cardinale dico a Eva Cloz, il problema è che considero la maggior parte dell'atteggiamento dei media italiani, dell'informazione italiana nei suoi confronti, è una roba che mi ha lasciato sempre, quasi sempre senza parole, perché chi non capisce l'autodeterminazione non capisce chi si combatte per i diritti naturali dell'individuo. Questa è la mia opinione. Va bene, grazie Eva Cloz. Allora, c'è spazio per Antonella da Roma, poi andiamo in pubblicità, avremo Giovanni Toti tra poco, è presidente della Regione Liguria, anche per parlare di questo trattato misterioso. Trattato ombra. Ci hanno rubato il mare. L'Italia scopre che cediamo miglia di mare. Alla Francia. Alla Francia. Ma come ci rubano gli gamberoni. E quei gamberoni. Le aragoste. Vabbè, Antonella pazzesco. Da Roma. Pazzesco. Basta! Basta! Basta! L'urlo liberato. Antonella, da quanto ce l'aveva questo? No, guardi, noi ci sta avvenendo un tumore al fegato. Gli onesti italiani e tra un po' non ci saremo più. Tutti col tumore saremo. A noi ci serve una persona che ci guidi, cioè dottor Giannino, io lo chiamo dottore. No, no, lo sa che non deve. È dotto. Allora, nel senso di nano, ci serve un Gandhi che ci porti. Lei ci dice che dobbiamo Gandhi, andare avanti. Già hanno detto una volta che è Gesù, Giannin Gesù. Gandhi. Lei ci dice che dobbiamo andare davanti al Senato a fare. Ma ci serve qualcuno che ci guidi, perché noi come ci mettiamo d'accordo? Oscar, ma dobbiamo farlo. Oscar, dobbiamo farlo veramente. Cioè, ma si può sentire questa? Noi possiamo vedere ancora i telegiornali con questa gente che ci. Noi abbiamo ancora le eccellenze nonostante questi ladri. Ma se, cioè, noi siamo un paese stupendo, ma io non lo so come si può fare. Ci serve Gandhi, guardi. Gandhi. Lei c'ha anche l'aspetto, dottor Giannino. No, io non c'ho l'aspetto, però il problema è. Guarda, io comincia a digiunare, voci, no, comincia quello a digiunare. Non c'è problema. Quando sento voci come Antonella, tu mettiti nei panni dei romani che leggono. Ci abbiamo ancora 13,6 miliardi. Siamo al massimo dell'aliquota IRPEF. Gli pigliano tutti i soldi possibili, sì. secondo la legge dello Stato. Gli promettono, dopo che hanno visto i mondiali di nuoto, gli impianti di Italia 90 non utilizzati, hanno finito. Gli promettono per l'ennesima volta che la grande alleanza di costruttori, imprenditori e politica, no, non vi costa nulla, anzi, vi porterà due punti di PIL. Mettiti nei panni dei romani, come fanno a crederci? Infatti, Antonella, ce lo rifà il basta di Oscar? Guardi, poi magari mi sento male, però glielo rifaccio, che tanto mi piace. Dai, lo faccio senza voce. Basta! Basta! Basta! Ecco qua. Più o meno è questo. Sfogo, la ringraziamo. Esatto, infatti, buona giornata. Si sfoga come nel famoso Fiera Quinto Potere. No? Uscite alle finestre, urlate, basta, non ce la faccio più. Tutto questo lo permetterò mai più. Mio Dio. Eccolo qui. Va bene, dai, andiamo in pubblicità, che poi avremo Giovanni Totti. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci qui, caro Oscar, alle 8:41 minuti. Eccoci siamo qua. Pronti. Allora, dobbiamo parlare di questo trattato. Perché si dice un po' misterioso? Trattato del marzo 2015, firmato da Gentiloni, ministro degli esteri, e ministro degli esteri francese. Dopo una trattativa è andata avanti al 2006-2012, quindi è una cosa. Un trattato che però ha, come dire, modificato i confini marittimi, diciamo così. Per cui capita, e anche oggi Repubblica lo racconta, che ci siano pescatori in Sardegna, ma in Liguria soprattutto, che vengono arrestati perché vanno a pescare e vengono accusati ignari di avere ignari del fatto che l'area territoriale di mare pare che sia cambiata. È cambiata, quindi... e vengono arrestati i pescherecci, sequestrati perché hanno sconfinato il territorio francese. Per cui c'è questo caso, insomma, del pesce conteso, e sappiamo che il pesce è una ricchezza, no? Per, il nostro, per la nostra economia. No, ma soprattutto pare, cioè, che il tutto avvenga senza che nessuno lo sappia. Esatto. Allora, volevamo chiedere lumi a Giovanni Totti, che è il presidente della regione Liguria. Buongiorno, presidente. Grazie per essere a voi. Qui. Allora, ma intanto è davvero una cosa fatta in gran segreto, di cui non... lei ne sapeva qualcosa di questo accordo? Guardi, noi non ne sapevamo niente, il governo non ci ha mai consultato, come immagino non abbia mai consultato il Presidente della Sardegna e per certi aspetti il Presidente della Toscana, che sono le altre due regioni interessate. Ma al di là, aspetti Presidente, ma al di là del fatto che non lo sapesse lei come tutti noi, eppure facciamo giornalisti, ma lei ha fatto fare anche un'indagine, non risulta niente di protocollato negli anni del negoziato 2006-2012 con la regione che guida? No, immagino che ci sia qualcosa di protocollato col Ministero degli Esteri che si occupa dei... No, voglio dire, qualcuno all'epoca forse, se ha ricevuto un pezzo di carta, doveva svegliarsi. Ecco, questo è il mio... Per questo dico, no, ma non lo so però. Le competenze dei nostri confini sono del Ministero degli Esteri, certo, e del governo, non delle regioni, che non hanno competenze, certo, ovviamente territoriali, quindi non erano tenuti in qualche modo a dircelo né a protocollare che... Detto questo, mi sembra un pasticcio allo stesso modo, nel senso che una parte del mare tra Ventimiglia e la Francia è passato sotto la sovranità francese, mm-hmm, tra questi una fossa piuttosto importante per una flotta peschereccia di Sanremo, che pesca i famosi gamberi di Sanremo, che sono una specialità per chi va nella Liguria di Ponente. D'ora in poi francese. Sì, esatto, specialità francese. Specialità francese. Sarà una specialità francese, io mi auguro di no, perché il trattato deve essere ancora ratificato dal Parlamento e firmato dal Presidente della Repubblica. Mi auguro davvero che si possa fare un passo indietro e tornare sui nostri passi, così come immagino si auguri la Sardegna, perché ci sono delle rotte che riguardano la pesca del tonno che sono state tagliate fuori da questo trattato. Ricordiamo la fossa del cimitero, no? Lì c'erano i gamberoni. È un trattato che fa riferimento a una revisione dei confini marittimi, penso di un trattato ONU dell'82, così sì, ho letto. Però detto questo, ci sono alcune decine di pescherecci di Sanremo che campavano sulla pesca del gambero di Sanremo, gambero che già sta in una fossa tra Ventimiglia e la Francia, che oggi se vanno di là, come è successo già, sono stati fermati e sono stati sequestrati. Ma voi cosa chiedete al governo, Presidente Totti? Cioè chiedete di non ratificare il trattato? Di non ratificare questo trattato, di richiamare i francesi al tavolo e di trattare, tanto più che per quanto mi è dato di sapere, per quanto ha appurato il nostro assessorato all'agricoltura, quella peraltro è una fossa che perché i francesi non usano, quindi sarebbe come dire un danno duplice, o oltre il danno la beffa, vedete voi. Però il problema è che intanto il governo l'ha firmato col ministro degli esteri, e quindi i francesi a questo punto avrebbero motivo di dire: noi intanto in Francia l'hanno ratificato in Parlamento, voi cambiate idea ancora. Dopo nove anni dal 2006 l'hanno già ratificato, gli italiani non l'hanno ancora ratificato, e quindi il Parlamento può non ratificarlo, bisogna vedere anche il Presidente della Repubblica, perché col governo si crea un problema nei rapporti bilaterali, perché i francesi possono dire: avete cambiato dal 2006 idea. L'avete firmato il vostro ministro Gentiloni. No, i francesi hanno legittimamente un trattato in mano che ha tutta la validità del loro Parlamento e del loro ministro degli esteri. Noi siamo ancora in una fase di approvazione, abbiamo chiesto, chiederò di nuovo, a differenza delle regioni di cui sono vicepresidente, di intervenire sul tema, così come ho chiesto a tutti i ministri liguri e i parlamentari liguri, ovviamente, di farsi carico del problema. È un problema in una regione dove già l'economia stenta, come in tutta Italia per la verità, penalizzare una parte importante del nostro agroalimentare come quello, una specialità tipica, una flotta peschereccia che dà da lavorare ad alcune centinaia di persone tra indotto e diretto, mi sembra francamente una follia. Avete una quantificazione? Cioè voi, Regione Liguria, avete fatto una quantificazione di quanto potrebbe essere il danno economico per il settore? È difficile fare una quantificazione esatta, possiamo dire che almeno una quindicina di pescherecci, 16, lavorano direttamente in quel tratto di mare, quindi ogni peschereccio lavora un certo numero di persone di equipaggio, dopodiché c'è ridotto i mercati ittici, tutto quello che si gira intorno. Penso che sia una cosa che riguarda alcune centinaia di persone, ma al di là di quello riguarda anche un prodotto pregiato della nostra costa e del nostro agroalimentare, come quelli di Sanremo, e soprattutto è una perdita che non ha alcun senso, perché sì, non abbiamo nulla in cambio. È stato semplicemente uno dei molti pasticci che questo governo a cuor leggero ha fatto senza chiedere nulla a nessuno. Senta, Presidente Toti, un'altra questione sulla Francia, giusto perché ci veniva in mente, conosco Giannino, insomma, che in al Brennero con l'Austria hanno messo il confine, lei con la Francia, con 20 miglia, visto che un confine lo vorrebbe un controllo dei migranti. Ma no, io sono contrario a un controllo all'interno dell'Europa, se devo essere sincero. Io credo quando vai negli Stati Uniti ti controllano quando entri negli Stati Uniti, non quando giri tra uno Stato e l'altro. Se l'Europa vuole essere una comunità di Stati importante e un soggetto della politica internazionale seria, i controlli si fanno alla frontiera quando si entra. Il problema è stabilire dei controlli che non siano quelli che sono attualmente e trovare il modo di controllare chi entra in Europa in modo tale che gli stati che fanno parte dell'Unione non abbiano poi il problema di chiudere le frontiere perché non vengono identificati i migranti o cose di questo genere. Quindi non è il problema dei controlli tra noi e la Francia o tra noi e l'Austria, che sarebbe giusto che restassero quelli di Schengen, ovvero la libera circolazione delle persone. Il problema è dare la certezza agli stati che non sono un primo confine marittimo, come l'Austria o come la Francia per i migranti che arrivano da 20 miglia, di avere una circolazione di persone che sono state regolarmente identificate, cosa che non sempre avviene in Italia perché, come è noto, una parte importante dei migranti non si fanno identificare, le nostre forze di polizia non le forzano per essere identificati. C'è un altro aspetto che mi aveva incuriosito di politica. L'ha sentito anche lei, Toti, Salvini, dire, di fronte alle accuse che ci sono nei confronti del vicepresidente della regione, Rixi, della Lega, di essersi intascato dei soldi, i magistrati mi fanno schifo, che schifezza. No, no, allora, le accuse non sono di essersi intascati dei soldi, le accuse sono Rixi è un personale, oltre che una persona per bene su cui metterei la mano sul fuoco. Si parla di fondi della passata legislatura, sì, quando esisteva una legge che assegnava ai gruppi consiliari dei partiti una serie di denari che potevano essere usati, come si dice, per l'attività politica senza rendicontazione, ovvero potevano essere usati per fare attività politiche, sull'attività politica è difficilmente sindacabile. Certo, ma lei condivide i toni? All'epoca era capogruppo e quindi si è preso la responsabilità della spesa dei soldi anche di altre persone. E sui toni di Salvini capogruppo. Lei li condivide? Non sono toni miei, non mi avete mai sentito dire cose di questo genere. Dopodiché che la magistratura in Italia abbia fatto dei grossi errori e che ci sia, come dire, un fumus intorno a quel mondo piuttosto denso, mi sembra chiaro a tutti per come è andata la politica e i rapporti tra politica e magistratura tra il 92 e oggi. Come in tutti i mondi ci sono dei magistrati molto seri che hanno rischiato o perso la vita combattendo la criminalità organizzata, ci sono all'interno di quel mondo altre persone che hanno condotto dei processi e dei procedimenti giudiziari dove qualche dubbio in più per tutti l'hanno fatto nascere. E siccome la moglie di Cesare, oltre che essere onesta, deve anche apparire tale sia ai cittadini sia agli altri poteri dello Stato, soprattutto quelli eletti dai cittadini, io credo che se si facesse una buona volta una riforma della giustizia che desse un po' più di ordine a quel sistema e una garanzia di imparzialità, un filo superiore, non faremmo un soldo di danno. Non c'è riuscito il governo di centrodestra, non lo sta facendo il governo di centrosinistra. Questo è il vero male della politica. Caro Presidente Toti, noi qua ci fermiamo. Io non lo so se però, Oscar, Giovanni Toti, lo ricordiamo, giornalista, direttore, ci sono state le nomine della RAI, non so se da Presidente della Regione Liguria vuole dire qualcosa su Daria Bignardi, per esempio, il nome che più circola, no? Ho visto le nomine della RAI, che gli devo dire? Gli auguro buon lavoro. No, posso fare una domanda al giornalista, oltre che al politico. Sì. Descriva, come se fosse un compitino, descriva le reazioni se Berlusconi avesse nominato alla testa di Rai 2 una valorosa professionista, ex Magnolia, ex Telesinco. Cosa avrebbero scritto molti giornali italiani? Guardi, dalla Tana. Esatto. Se i governi di centrodestra avessero fatto il 10% di quello che ha fatto questo governo di centrosinistra, dalla gestione delle banche al caso di Banca Etruria, alle nomine delle partecipate, alle nomine delle società controllate, alla RAI, probabilmente ci sarebbero trattori armati e forconi davanti a Palazzo Chigi. Siccome in questo paese alla sinistra, a una certa sinistra, si perdona tutto, il centrodestra non si è mai perdonato niente, che devo dire, dal punto di vista della Mignardi è una collega che ha fatto una lunga carriera, quindi gli auguro buon lavoro. Dopodiché un po' più di equilibrio e un pochino più di polifonia non farebbe male a questo paese. La ringraziamo, ovviamente. Vabbè, grazie. Buona giornata, Presidente Liguria. Comunque. Sai, dobbiamo dirlo per l'ascoltatore come ha reagito Salvini all'accusa dei magistrati. E sti cazzi! Ha detto con una grazia e una diplomazia. Che i magistrati hanno detto: Salvini con queste parole è un rischio per la democrazia. Risposta editoriale stringata di Salvini. Sti cazzi! Sti cazzi, ha scritto. Poi tra l'altro ha sbagliato il nome. Un piccolo ciccolo è diventato piccolo, perché sono i piccoli vezzi togliattiani. Quando sbagli il nome di un avversario per delitto. Del resto abbiamo appena appreso che però l'ex presidente della Commissione Sanità metteva i pezzi da 500 euro nel congelatore. Sì, è bello nel questo. Congelatore. I soldi nel freezer, ma si tengono meglio, in effetti, capito? Si tengono meglio. Le banconote da 500. Però ci chiama Carlo da Taranto. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che dice? Niente, volevo dire alla signora del Sud Tirol che sì. È stata eletta per 31 anni perché voleva annettersi all'Austria, e sì. Anche in Puglia avrebbe un plebiscito di voti se ci annettono all'Austria, magari anche alla Svizzera, poi non ne parliamo. Ma che discorso è? Così la Svizzera avrebbe il mare, e che mare? Dica Carlo, ma perché secondo lei che Puglia Svizzera non è come Sud Tirol e Austria? Su, basta sapere un po' di storia. Ma che fa? Ma prima c'erano le colonie, ma è una questione di concettuale. I soldi però sono disposto a restituire quelli che ha versato, non darne di più. Questa potrebbe essere una soluzione. Fino a quando è versato, che dipende. Carlo, guardi, questo è il meccanismo del vitalizio. Questa è la sproporzione di tutti i vitalizi. Vattene, o sei italiano o lei non è italiana. Comunque io non sono d'accordo. Beh, di passaporto, Carlo, credo che queste semplificazioni, mistificazioni nazionalitarie che vibrano nell'animo profondo dell'Italia siano l'espressione del suo passato peggiore. Lo dico proprio brutalmente, Carlo. Cioè, se si offende mi dispiace, però io penso che dire a chi su questa questione delle eredità linguistiche, dei confini, dopo la guerra ci sono cose da correggere, e comunque lasciamo decidere la gente, liquidarla dicendo vattene perché tu sei italiana, significa proprio non sapere l'ABC della storia. Carlo, sono brutale, la penso così. Vabbè, chiudiamo con un po' di brutalità. Che dobbiamo dire? Mi verrebbe dire sti cazzi. No, questo noi non lo diciamo mai. Ricordiamo che il fondo del clero è inscuribile, 2,3 miliardi ieri hanno vinto in Parlamento, però per un euro di contributo noi diamo ai preti in Italia con i nostri soldi 3 euro di prestazioni. Fondo del clero in equilibrio. Questo è quello che voglio. Va bene, l'hai detto pacatamente. Pacatamente, dai, sì. A domani. Basta! Oh. Serve Gandhi, guardi. Gandhi. Lei c'ha anche l'aspetto, dottor Gemino.